confidare che il mio corpo era in lutto e forse ancora un po' lo è per tutte quelle frasi che non ho mai detto. Affetto tolto, sommerso dal dolore che io troppo porto nel mio petto, senza una dolce fragola in questo mondo amaro che sia faro raro in una notte che riarde la gola, notte troppo rotte senza quell'acqua che asciughi via qua il silenzioso rancore di troppe volte che cercavo soluzione mie perché, ma molte volte si rimane a scoprire solo che nelle mani riemergono frammenti di vita in disarmo, terre friabili, troppo flebili, ora cancellano serate troppo lebili, tempeste riardono, confondono le menti, riardono inganni che nel mondo i menti portano, e ora lì con te straziano lontano nel tuo mondo tutte quelle volte, sere storte contro quelle belle, portano via le verità, troppe volte immersi si rimane in vanità, tutte quelle volte storte in cui la realtà capovolte ti sommergono e nessuno sa, paure troppe volte riemergono e portano via le più pure semplicità, come il tuo pensiero di vento, ora la mente comunione di tutto, questo tempo con te a fianco nell'anima, tornano e riemergono sorrisi di luci tue, incancellabili, nelle mie eclissi che si stringono, nel rumore delle genti che si confondono, i miei passi lenti come menti, che poi le tane infliggono tra i denti, i pugni lenti, che riemergono quelle sere di chimere nere, poi offendono passi certi. Dare e avere non è sempre facile, in mezzo far soffrire tutte quelle file di agguati al cuore, quando vedo solo te nel mio amore trovo notte impure, covate, lì ad aspettare, si riardono il cuore, solitudini riemergono, in baci che vanno e vengono, vorrei capire solo se ti confondono quei miei passi, quei miei gesti nel mio mondo, oppure se ti appartengono come respiri che sconfiggono nodi del cuore, che lì ti portano via, simbiosi in comunione di parole e... Ti vorrei confidare che il mio cuore era in lutto e forse ancora un po' lo è per tutte quelle frasi che non ho mai detto, affetto tolto, sommerso dal dolore che io porto troppo dentro nel mio petto, senza quella fragola in quel mondo amaro che si affaro raro in una notte che riarde la gola, notte troppo rotte senza quell'acqua che sciacqui via qua il silenzioso rancore di troppe volte che cercavo soluzione mie perché molte volte si rimane solo a scoprire che in questo tutto, in questo immenso, che d'affetto il tuo mondo ti ripaga, manca il senso di qualcosa che abbastanza riesca e sconfigga quella scala troppo dura e tu osa per scalare nella vita. Una scusa pura che ti renda la giornata più gioiosa e rimane il sapore del ritorno alle tue lacrime, poi trova dopo affetto in queste rime che si stella nel mio firmamento di te brilla, si stella fuori nel mio firmamento di tre vite brilla, l'irriducibile tua voglia di tornare a quel profumo. Tornare a quel profumo. Di tornare a quel profumo di quella sera che condusse via quella voglia e paura che è anche un po' troppo la mia. Sì, sì, è ancora bellissimo. Ma che cazzo di...